Victime paschali laudes, immolent Christiani, agnus redemit homines, Christus innocens patri, reconciliavit peccatore. Sed vita duello confixere mirando nux vitem mortuus premiat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via sepulchrum in Angelicos estes, sudarium